Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Occhi rosi che lacrimano e prudono, allergia, congiuntivite o sintomo sospetto? A Obiettivo Salute ne parliamo col dottor Matteo Piovella, oculista e presidente della Società Oftalmologica Italiana. Buongiorno dottor Piovella, bentornato. Buongiorno Nicoletta e grazie mille. Congiuntivite è importante perché giustamente ci sono le congiuntiviti di tutti i giorni, come la congiuntivite allergica, ma sappiamo che la congiuntivite da coronavirus è uno dei primi sintomi. Partiamo da questo, è un po' diversa, quindi avviene prima in un occhio, non ha secrezione, l'occhio non diventa rosso fuoco ma solo rosato e in più abbiamo una ghiandola all'attaccatura della mandibola che si gonfia, quindi abbiamo questi sintomi. Poi può passare nell'altro occhio, però ci interessa dare delle informazioni. È ovvio che questa è anche la stagione delle congiuntivite allergiche, che hanno il loro decorso tradizionale e che le persone di cui ne sono affette conoscono perfettamente la loro situazione. Ricordo che è giusto farsi controllare per stabilizzare la terapia, perché la terapia dà grande sollievo a queste situazioni. Ricordo che una congiuntivite allergica dipende sempre da un fattore scatenante che ormai le persone hanno imparato a conoscere, tranne quelle che si affacciano per la prima volta. Ma direi di chiudere che quando c'è una congiuntivite oggi è importante farsi vedere subito dal medico oculista, perché ovviamente non possiamo fare come nel passato, che si lasciavano giorni e giorni prima di prendere provvedimenti. Dottor Piovella, parliamo di prevenzione, perché in questo periodo è stato molto davanti allo schermo di PC, tablet, smartphone. Quali sono le attenzioni da seguire? Dobbiamo mantenere la giusta lubrificazione degli occhi, e quindi dobbiamo avere degli ambienti giusti, degli ambienti dove ci sono dei dispositivi di purificazione dell'aria e che non fanno stare l'aria secca. Perché? Perché quando noi fissiamo un punto, l'ammiccamento, cioè l'apertura e la chiusura delle palpebre, che sono il nostro tergicristallo per spandere una giusta lubrificazione dell'occhio, si riduce di 3 volte. Quindi questo è poi il fattore scatenante che crea tutte quelle situazioni di fastidio e di imbarazzo. Teniamo conto dei bambini dagli 8 ai 13 anni. Oggi nei paesi dell'Asia la miopia è diventata una pandemia. Quindi si sta diffondendo incredibilmente al 100% di questi ragazzi. Noi in Europa siamo a meno della metà, quindi siamo in una buona posizione. Per prevenire questo in Asia cosa hanno attivato? Ogni 20 minuti di scuola computer ci si ferma 30 secondi per fissare da lontano e distogliere la fissazione, lo sguardo contratto da vicino. Lo stesso vale per quando i ragazzi giocano con i videogiochi o adoperano l'iPad o lo smartphone. Queste sono delle piccole situazioni che, unite al fatto di stare 2 ore all'aria aperta al giorno, perché non sappiamo perché, ma la luce del sole ha un tratto beneficio, potrebbe risolvere i problemi di tanti e ci mette tutti in condizione di continuare a lavorare in questo modo senza conseguenze e senza pericoli. Grazie, per oggi è tutto, vi auguro una buona giornata, un saluto da Nicoletta.